I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Nuova vita per il Monte dei Paschi, ma problemi vecchi. Oggi pomeriggio, infatti, salvo sorprese, il Consiglio di amministrazione del Monte dei Paschi, che si riunirà a Milano, nominerà il nuovo amministratore delegato dopo le dimissioni a sorpresa di Fabrizio Viola. E anche in questo caso, salvo sorprese, il nuovo amministratore delegato sarà Marco Morelli, attuale numero uno di Bank of America Merrill Lynch. Stanno andando in secondo piano le polemiche sul nome di Morelli, che era stato responsabile del corporate banking del Monte dei Paschi e poi direttore finanziario tra il 2006 e il 2010. Le indagini della Procura hanno infatti messo in luce come Morelli si oppose alle scelte gestionali del duo inquisito in numerose inchieste formato da Mussari e Baldassarri, i dominus del Monte dei Paschi di allora. Resta invece di estrema attualità l'aumento di capitale del Monte dei Paschi. Le ipotesi sempre più forti sono di uno slittamento nel 2017 per un aumento di capitale stimato in 5 miliardi, ma c'è anche chi ipotizza che potrebbe essere inferiore, almeno la metà, 2 miliardi e mezzo, e invece prevedere una conversione di altri titoli. Staremo a vedere quanto converrà al sistema bancario del paese continuare a trascinare il dossier Monte dei Paschi. Non è un mistero, infatti, che ovunque si rechino i nostri banchieri e i nostri politici all'estero, quando si arriva sul tema delle banche italiane, la domanda è una e una sola: cosa farete sul Monte dei Paschi di Siena? I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. I mercati finanziari continuano ad andare in altalena, ieri un recupero di Wall Street, oggi una nuova caduta, oggi soprattutto ancora incertezze sul passo dell'economia, sul futuro dei tassi di interesse e della liquidità che riesce ai mercati. Ma per quanto riguarda l'Italia, due conti sono possibili: le banche continuano a pesare negativamente sul listino, ci sono i titoli energetici sempre sotto pressione per effetto del petrolio, ma soprattutto c'è una constatazione che va fatta. Malgrado le incertezze e le paure che spingono sempre più risparmiatori a chiedersi se lasciare il risparmio in borsa, la tendenza, la propensione e soprattutto l'importanza della consulenza finanziaria, di rivolgersi ai professionisti, di chiedere la composizione del proprio portafoglio se giusto, che cosa comprare, che cosa vendere, insomma rivolgersi a chi fa questo mestiere e professione, è ancora troppo bassa. Colpiscono i dati diffusi dalla Consob su il bassissimo livello di consulenza finanziaria, soprattutto a livello indipendente dei risparmiatori, ma soprattutto colpisce una cosa, che la spesa in cartomanzia, occulto, previsioni del futuro con le carte o con la sfera, continua ad essere persino superiore a quello che si spende per difendere il portafoglio. Gli ultimi calcoli dicono che si spendono 15 miliardi l'anno in Italia per farsi fare le carte, per la consulenza finanziaria il livello arriva quasi alla metà. Si tratta di un fatto certamente non edificante e su cui riflettere quando ci si chiede perché il proprio risparmio non è sicuro in borsa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.